Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Drammatica situazione in Abruzzo sul versante pescarese del Gran Sasso, dove una valanga ha completamente travolto l'hotel Rigopiano. Una trentina le persone intrappolate nell'hotel tra ospiti e personale che ci lavora. È stata estratta purtroppo la prima vittima, sarebbe un uomo, è stato il primo che è stato recuperato dalle squadre del soccorso alpino che stanno lavorando da ieri notte alle 4. Gli uomini che stanno facendo il soccorso stanno chiamando ad alta voce chi è ancora nell'albergo, però purtroppo da quello che abbiamo saputo nessuno sta rispondendo. Ci sono due superstiti, due persone si sono salvate, si trovavano in un'auto nel parcheggio del resort quando c'è stata la valanga e sono le persone che hanno dato l'allarme. C'è ancora tantissima difficoltà a raggiungere l'albergo perché ci sono fino a 4 metri di neve, infatti il soccorso alpino che è arrivato alle 4 di notte ha proceduto a piedi ed è arrivato con gli sci. Hotel Rigopiano è un nome che probabilmente sentiremo molto nominare in questi giorni, sentiremo parlare molto. Ho due punti di vista rispetto al luogo che in questo momento è al centro della nostra attenzione, in cui ci sono delle persone seppellite sotto la neve, sotto una slavina. C'è stato un terremoto, ci sono state delle scosse, c'è stata una nevicata come non avveniva da decenni. Due circostanze atmosferiche concomitanti che hanno determinato una situazione di paradosso. Abbiamo difficoltà a raccontare quello che sta accadendo al centro dell'Italia. Da una parte ho l'immagine del sito promozionale Hotel Rigopiano, una baita unica in uno scenario incantato dove assaporare il lusso, nel cuore verde dell'Abruzzo, tra atmosfere dannunziane e paesaggi incontaminati. E si vedono persone felici, persone in accappatoio, persone in un luogo termale, un luogo di felicità, di salute, un luogo di lezione, un luogo che sembrava impossibile ad essere lambito da una tragedia così imponente. Davanti a me ho le immagini televisive dell'hotel Rigopiano, gli escavatori che stanno portando via la neve in un mucchio indistinto di macerie, di neve, di detriti in cui non sa bene esattamente qual è lo stato delle persone che stanno dentro, probabilmente una trentina. Questa mattina voglio che ancora una volta, come è accaduto ieri, le persone chiamino all'800240024 e diano comunque testimonianza di quello che loro stanno facendo, quello che sanno, quello che a questo momento a loro risulta oggettivamente da questa fetta importante d'Italia seppellita dalla neve e seppellita dall'incomunicabilità, che è il problema più grosso. In studio con me c'è Laura Bettini, che ci aggiorna subito esattamente su cosa c'è di nuovo rispetto a quello che stiamo seguendo passo passo. Cosa c'è di nuovo? C'è che non abbiamo difficoltà solo a raccontare quello che accade là, ma che abbiamo difficoltà ad andare, appunto, come dicevi, ci sono mezzi all'opera, addirittura c'è stato un mezzo dei vigili del fuoco che si è ribaltato nel tentativo di raggiungere questa località a 1200 metri. Ora leggiamo che i soccorritori, i primi, come sappiamo, sono già arrivati, ma adesso si sta cercando di portare là il grosso dei soccorsi, quindi tutte le attrezzature necessarie, e sono ancora a 700 metri dall'albergo, quindi la cosa è lunga. E si è riusciti a far ripartire la turbina spazzaneve rimasta senza gasolio ed è ripartita perché i vigili del fuoco a piedi nella neve hanno portato le taniche con il gasolio, quindi siamo veramente in una situazione complessa, dove ancora si è ritornati a lavorare di braccia e di gambe, insomma, Gianluca, questo è. Il dato per lo ben oggettivo è che c'è una persona accertata, un morto accertato, e 30 persone disperse. E due superstiti. 800240024, ci sentiamo tra un istante, chiamate, per quanto possibile cercheremo con tutti i mezzi a nostra disposizione, le fonti ufficiali, le agenzie di stampa, ma anche il numero verde che è aperto, la possibilità di raggiungersi attraverso WhatsApp, attraverso l'SMS, attraverso tutte le maniere in cui possiamo cercare di contribuire e aggiungere quello che è il contributo del nostro pubblico rispetto ai colleghi, alle persone che stanno sul posto e ci stanno raccontando l'evento. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Più brutta di questa non può capitare. Non si fa a uscire da nessuna parte. Ci sto 2 metri di neve, non è aperto niente. Anche c'è una donna isolata. I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Questa notte alle ore 4 c'erano oltre 6.800 persone del sistema di protezione civile in servizio portando soccorso. Oltre 3.000 mezzi, 450 gruppi elettrogeni, questa notte alle 4 erano in servizio. Evidentemente, come ha già spiegato il capo della protezione civile questa mattina, due emergenze che tra l'altro vengono sono gestite anche tecnicamente in maniera opposta sono avvenute nello stesso momento, per cui il sistema dei soccorsi sta cercando di dare delle priorità perché evidentemente il numero delle frazioni da raggiungere è superiore ai mezzi in questo momento in campo. Ripeto, 800240024 è il numero verde attraverso cui è possibile chiamarci, le persone che naturalmente ci ascoltano, le persone che hanno possibilità e capacità di aggiungere elementi a quelli frammentari che stiamo cercando con tutto il possibile potere di acquisire informazioni e di mettere assieme. È inutile che le persone ironizzino e scrivano: ma se non c'è elettricità come fanno a ascoltarvi alla radio, con la radio a manovella? Non dappertutto non c'è elettricità, certamente ci rivolgiamo alle persone che si muovono e lambiscono i confini dell'area di emergenza, che comunque hanno persone di cui non hanno notizie, comunque hanno avuto informazioni recenti su queste persone. Molti, mi rivolgo alla collega Laura Bettini che è con me in studio, si stanno domandando sul fatto che la turbina resti senza gasolio. Sembra qualcosa di paradossale che un mezzo di soccorso non abbia il carburante per essere alimentato, però le cose sono così. Paradossale ma vero, perché poi dopo la realtà è anche quella, è fatta di mezzi che hanno bisogno di carburante. Io non so se dubito sia partito a secco, l'avrà consumato lungo la via, l'avrà consumato per rimuovere la neve, però questo è accaduto, almeno così ci dice l'ANSA, ma non abbiamo motivo di dubitarne. Ora leggiamo altre agenzie che arrivano, riguardano altre possibilità di valanghe. Io credo, Gianluca, questo sia abbastanza scontato, c'è stato molto neve, c'è ancora neve che cade da qualche parte, c'è molto vento, c'è stato un terremoto, il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri ci dice che ci sono rischi valanghe. Io mi auguro che questo sia chiaro a tutti, che non ci sia neanche bisogno di ripeterlo, come prima dicevamo dovrebbe essere chiaro a tutti che non è il momento di attraversare l'Italia da est a ovest passando per l'Abruzzo. Non è il momento di andare a fare il turismo dei curiosi, di andare in luogo della tragedia a vedere cosa accade. Ci fa notare un ascoltatore però che probabilmente ha visto anche lui il sito ufficiale dell'albergo, dice: sì, era un hotel di lusso, ma se guardate le immagini sul web si vede in alcune che è costruito alla fine di un canalone. Sì, però finché non c'è la slavina, finché non c'è il terremoto, finché non ci sono delle condizioni particolarmente difficoltose dal punto di vista atmosferico, poi vedremo se sarà abusivo, ma non credo assolutamente, comunque sia le riflessioni si fanno a posteriori quando accadono le tragedie. Parlarne prima è un po' difficile, era un posto bellissimo, un posto probabilmente di turismo abbastanza esclusivo, e soprattutto in questa fase dell'anno chi va in montagna è una persona che naturalmente se lo può permettere, ma questo naturalmente non prescinde dal fatto che sia un momento in cui è accaduto qualcosa che non era prevedibile. Alfredo da Bologna, buongiorno Alfredo. Sì, buongiorno, no, Alberto, comunque sia Alberto. Alberto, mi scusi, sì, Alberto, avevo letto male. Io raccontavo, ho sentito, ero in macchina, quindi ho ascoltato appunto di questo attrezzo dei Vigili del Fuoco che è rimasto senza gasolio. Attrezzo, esattamente, mi sembra che sia una sorta di escavatore, no? Dico Laura Bettinca. Allora, sì. Io vi rileggiamola, andiamo a ricercarla, sì. La rileggiamo così almeno... Un automezzo adatto a farsi strada attraverso la neve, da quello che vedo dalle immagini che cerco di ricostruire rispetto a quello che era prima, cioè dalle immagini del sito dell'hotel che vedo come era costruito, vedo il paesaggio intorno in una foto probabilmente fatta in periodo estivo, e quello che vedo adesso in televisione, l'hotel si è proprio spostato, è stato trascinato a valle. Ecco, era una turbina che doveva farsi spazio nella neve. Lei cosa voleva dire esattamente? No, volevo dire che a me hanno raccontato un amico che in un paesino dell'Appennino bolognese, quando venne quella nevicata qualche anno fa, dove molti paesi rimasero isolati senza, diciamo, elettricità, sono intervenuti i soccorsi, hanno montato un generatore, hanno lavorato quasi un giorno intero. Dopo un'ora che erano andati via e il generatore lavorava, a un certo punto il generatore si è spento, hanno cominciato per capire qual era il motivo del generatore, si era fermato, non c'era gasolio. C'è da credere che il gasolio ghiaccia facilmente, adesso non voglio, però ci sono anche, possono essere problemi. Comunque era la turbina dell'escavatore che stava lavorando la neve, non so se è finita senza gasolio, se comunque ci sono stati problemi, in questo momento si è fermata. Sergio da Savona, buongiorno. Sì, bu- Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei. Volevo semplicemente complimentarmi per il modo come dà le notizie, come costruisce e crea un supporto. È costruttivo, diversamente dal... Beh, è tutta la radio che si muove in questo sforzo. In questo momento diciamo sì, che ecco, è il mezzo più agile per poter raccogliere informazioni. Una volta sicuro, questo sicuro lavoro lo facevano, perlomeno io ricordo per l'esperienza che ho, la rete dei radioamatori. Oggi vengono considerati erroneamente un po' meno, anche se ci fosse qualche radioamatore in ascolto che sicuramente hanno qualche informazione da aggiungere a quella che noi possiamo aggiungere. Ma anche qualcuno che abbia frequentato questo hotel magari, magari ci potrebbe anche un po' spiegare com'era fatto, perché noi vediamo le foto, ma le foto sono piatte, non sono, no, la realtà. Qualcuno, se nell'area comunque delle persone che passano soggiorni invernali in un resort come l'hotel Rigopiano c'è stato, l'ha frequentato, ci racconta qualcosa questo hotel, mettere insieme degli esempi senz'altro importante. Giuseppe da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamo perché in questi giorni purtroppo ho assistito anche con mio rammarico a uno spettacolo di grandissimi volontari, tante braccia, tanto cuore messo in campo, a dispetto della disponibilità che io so esserci dalle nostre forze armate, perché a tempo debito ho prestato servizio come alpino e ho visto che abbiamo i mezzi idonei per poterci muovere in questi paesaggi similartici, e so essere mezzi come l'Aglunzoner che sono nelle nostre disponibilità, ma non li ho visti impiegati. Però guarda, io conosco abbastanza l'Abruzzo perché c'è una casa, sono stato terremotato e tutto. Sono posti in cui si nevica, quando nevica è una benedizione, festeggiano, aspettano la neve perché diciamo è la prima ragione di benessere commerciale, di ricettività. Se non si scia l'inverno non ci va nessuno. Raramente accade una circostanza così infausta in cui ci sia un terremoto e ci sia anche una neve che va sopra ogni speranza. Se non ci fosse stato il terremoto, probabilmente questa nevicata sarebbe stata vista una benedizione, i campi da sci pieni di gente, i paesaggi bellissimi, escursioni, ciaspolate. E adesso, ahimè, è una situazione disperata perché non c'è energia, non ci sono collegamenti e c'è una situazione di estrema emergenza. C'è qualcosa devi dire, Laura? Perché no, vedo... di nuovo non abbiamo altre notizie, sono usciti a piccoli riassunti, no, della situazione attuale, ma vedo che sono tutte notizie che noi già ben conosciamo, una ventina di turisti, 7 dipendenti, l'allarme era stato dato via WhatsApp a quanto pare da persone che si trovavano nel posteggio. Abbiamo sentito prima l'intervista al prefetto di Pescara Provolo che ricordava proprio come appunto l'allarme fosse arrivato da persone che in quel momento erano fuori dall'albergo e che hanno visto quello che accadeva, sono rimasti intrappolati nel posteggio, uno in macchina in particolare, lì è stato poi dopo salvato e poi è stato dato il via ai soccorsi, ma per arrivare a 1200 metri il soccorso alpino ci ha messo tutta la notte, è arrivato alle 4 del mattino, ha dovuto usare gli sci e poi da lì in poi è iniziata appunto questa lunga... Un ascoltatore su WhatsApp ci segnala un articolo di un anno fa, per un processo c'è stato per abuso edilizio e corruzione conclusosi proprio lo scorso anno per l'astruttore Rigopiano, però dal titolo adesso entriamo nella notizia c'è scritto processo assolti, quindi il processo c'è stato, non sono stati assolti. Adesso entriamo in merito a questa notizia e vediamo se in realtà c'erano già dei precedenti, però in questo momento mi sembra secondario. Detto questo, in ogni caso bisogna vedere cosa è successo a questi 30 che sono dentro, questa è la cosa principale. Massimiliano da Reggio Emilia. Massimiliano. Sì, buongiorno. Salve, io chiamo da Reggio Emilia. Proprio ieri sono stato ad Atri, in provincia di Teramo, per prestare soccorso a dei parenti che non riuscivamo più a raggiungere telefonicamente, di cui non avevamo notizie. Quindi sono partito all'ora di pranzo per arrivare in quelle zone lì. Atri è un comune della provincia di Teramo che è sommerso di neve. Ci sono oltre 2 metri di neve nel centro della città, non si sapeva neanche se si fosse potuto raggiungere il centro, insomma non avevamo nessuna notizia. Io ho preso la mia macchina, sono partito, sono andato giù per andare a vedere un po' com'era effettivamente la situazione, perché c'è molta preoccupazione chiaramente dei parenti che stanno lì per via delle nevicate abbondanti, manca la luce, manca l'acqua, mancano le linee telefoniche, l'unica disponibilità che hanno è quella del gas, quindi possono servire anche cose elementari come una torcia, delle pilette da ricaricare appunto le torce, della legna, dell'acqua da poter bere. perché paradossalmente l'acqua, anche se manca avendo la neve, con un camino, con un fuoco, si può scaldare dell'acqua e ci si può lavare. Però tutto quello che io ho visto non ha nulla a che fare con questi commenti che cominciano ad arrivare dai cittadini di questo paese un po' curioso, dove in un momento drammatico di grande emergenza si preoccupano di segnalare eventuali abusi, edilizi, eventuali... Ho rintracciato notizia. Leggo una puzza pubblicata sul portale di Tiscali, parla di una vicenda che risale al 2008, quando il PM la procura di Pescara, Gennaro Varone, sulla base di indagini e intercettazioni telefoniche nell'ambito di un'inchiesta denominata Vestina, ipotizzava il passaggio di denaro e posti di lavoro in cambio di un voto favorevole per sanare l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Però questo presunto abuso riguardava l'ampliamento della struttura, in origine era un casolare, poi è diventato un grande albergo. Sono stati coinvolti due ex assessori, un ex consigliere, però pare che il processo, che risale al 2008, poi sia stato, diciamo, chiuso per prescrizione del reato. Sempre da Tiscali leggo in un articolo riassuntivo appena uscito, lo scorso novembre è emessa la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Non sussiste. Il reato era comunque già prescritto. In ogni caso non sussisteva, cioè, quindi non lo so, al momento dal punto di vista processuale il fatto non sussiste, comunque c'è stata una vicenda processuale. Massimiliano, comunque era una questione di ampliamento della struttura. Cioè, all'inizio era un casolare, adesso vediamo tutt'altro che un casolare, un grande albergo, così sembra, sì. Massimiliano da Reggio Emilia. Allora, Massimiliano, abbia un attimo pazienza, dobbiamo dare la linea, solo un istante, si faccia un bel respiro, attenda un secondo, poi riprendo anche lei. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento Melog, cronache meridiane. 800240024, aspettiamo le vostre telefonate a contributo e a complemento a quello che cerchiamo per quanto possibile noi di raccontarvi di quello che sta accadendo in Abruzzo, gli animassi nell'Italia centrale. Abbiamo chiamato a raccolte radioamatori, una maniera antica ma sempre efficiente nelle grandi catastrofi, per riallacciare dei fili di informazione. Abbiamo Massimo da Cuneo. Massimo, buongiorno. Buongiorno Gianluca, sono Massimo d'Alba, provincia di Cuneo. Cosa dire? E la conferma che le nuove tecnologie sono affascinanti, complesse ma totalmente delicate. E infatti basta che vada via la corrente elettrica che i vari ponti ripetitori che servono, i telefonini, servono addirittura le broadcasting in FM, la radio classica in FM, si ammutoliscono e non c'è più comunicazione. Ecco, ma ti risulta, Massimo, dalla rete radioamatori, non so se tu sei stato in ascolto oggi, hai trovato tramite i tuoi colleghi possibilità di avere altre informazioni, ci sia stata attivata una rete parallela di radioamatori che danno informazioni da quel posto? Puoi in qualche maniera verificarlo, farci sapere? Ma diciamo così, che innanzitutto bisogna vedere la gravità, perché purtroppo da cosa ho sentito, io non ho il polso diretto di cosa sta succedendo nel centro Italia, il problema grosso è che i radioamatori staranno spalando neve più che a trasmettere dati, in quanto è già presente tutta una catena di soccorsi o altro. Ma ciò vuol dire che la vecchia radio AM, le onde medie, le onde corte, quella radio un po' vintage che adesso stiamo smantellando in quasi tutta l'Europa, dava la possibilità di una copertura nazionale e addirittura internazionale, e di conseguenza non c'era questo vincolo di essere... Lo so, Massimo, adesso stiamo raccontando un'emergenza. Un'altra volta c'è una bella trasmissione, quanto erano belle le onde corte, le onde medie. Oggi non devono morire, purtroppo c'è stato un disinvestimento nei confronti di queste forme di modalità in favore, diciamo, delle reti, però quando non c'è, soprattutto in zone particolari, quando manca l'energia, muore la rete. Sentiamo Mauro da Chieti, buongiorno. Ciao, buongiorno. E solo per dire, io sono nato a Penne e mia mamma è nata in Isola del Gran Sasso e passavamo tutte le estati lì a Rigopiano. Quello è uno dei centri benessere più in voga e all'avanguardia che c'era, altro che sanatorie, altri casi, cavoli che hanno detto, stupidaggini che hanno detto. Stupidaggini, c'è stata comunque un'inchiesta, è risolta bene per le persone coinvolte, ma è lecito però che un magistrato indaghi sui dati di fatto. Assolutamente. Per di più, la cosa assurda è che ieri sera ho chiamato un caro amico che è nel soccorso alpino, che mi ha mandato un messaggio alle 10:30 e ha detto: guarda, sto partendo ora per andare a Rigopiano e faremo da Campo Imperatore, faremo a piedi fino, diciamo, all'hotel, perché è impossibile arrivare lì sul posto. Beh, è una bella discesa, arrivati, è una bella discesa. C'è un'unica strada che arriva lì. L'ho fatto parecchie volte in macchina per risalire dal Saltolato, è proprio... Quindi scendono a Campo Imperatore, diciamo, a monte dell'hotel. Sì, hanno scavalcato il Gran Sasso per poter andare... Beh, d'altro la situazione, se ci chiamano da Teramo, che anche Teramo, diciamo, ci sono problemi di persone isolate dalla neve, la situazione è abbastanza ampia e, diciamo, bypass e circonda tutto il Gran Sasso. Abbiamo Domenico, provincia di Teramo, conosce molto bene il resort. Domenico. Buongiorno Nicoletti, congratulazioni per la trasmissione. Io conosco molto bene il resort e sono della zona, sono di un paese confinante con Rigopiano, Castel del Monte. Praticamente questo resort è ubicato in una zona bellissima, senza nulla purtroppo intorno. Ci sono grosse difficoltà. Il vantaggio è quello: chi va lì vuole stare tranquillo, si vede soltanto alle spalle la montagna, davanti un bellissimo altopiano, è stupendo, boschi, è un posto bellissimo. In questi giorni sarà stato bello, non una piscina riscaldata all'aperto in mezzo alla neve, penso era un soggiorno da sogno. Assolutamente sì. L'unico problema è che per raggiungerlo i turisti, appunto, e gli ospiti fanno molta fatica, anche quando non c'è neve. E niente, i proprietari, conosco il proprietario, non sono in amicizia, ma una conoscenza così superficiale, e ci hanno messo molta passione per ristrutturare questo casale, che credo fosse di proprietà dei nonni, per cui c'era anche l'aspetto affettivo verso questo casale. Beh, adesso è un po' più di un casale, una struttura imponente. Sì, assolutamente. Cioè, è stato costruito abbastanza intorno al casale. Sì, però l'aspetto affettivo è stato dominante sulla scelta, appunto, di investire su questo vecchio casale. Però Domenico, mi interessa una cosa, lei mi dice che comunque era già un posto che aveva come suo valore, diciamo, turistico, il fatto che era abbastanza isolato, che andava lì stava tranquillo. Come disvalore in questo momento c'era soltanto una strada che ci andava e comunque era difficile da percorrere? Assolutamente sì, anche in condizioni, anche il periodo estivo è difficile da percorrere, la strada è difficoltosa, non è bellissima. Comunque all'ingresso di questo resort, sulla sinistra c'è il salone ristorante, sotto c'è la spa con la piscina al piano sotterraneo. Allora, resti un attimo, diciamo, in ascolto, lei ci può dare delle informazioni, visto che conosce la struttura. Esattamente, io avevo letto dal tweet di Corrado Zunino, che è l'inviato di Repubblica, che si diceva che il personale dell'albergo, alcuni clienti potrebbero aver cercato rifugio nelle saune, quindi al piano interrato. A me questa notizia è sembrata molto strana, però lei, che magari conosce la struttura, mi può dire no, invece ha senso. La reputa possibile questa via di fuga nelle saune? Assolutamente sì, perché è il primo livello le saune, in pratica hanno il terreno dietro, e al piano superiore c'è la reception e sulla sinistra all'ingresso, lei guardando frontalmente, sulla sinistra c'è il salone e il ristorante con sopra le camere, per cui il punto da dove può essere arrivata la slavina. Sotto sì, assolutamente sì, nelle saune probabilmente sembra la zona più solida di tutta la struttura. Esatto, perché poi questa piscina è parte interna e parte esterna, lei esce dalla piscina e è divisa da una vetrata filo a pelo d'acqua praticamente. Non aver avuto il tempo di andarci sotto, però questa è l'unica condizione, non aver avuto il tempo di nascondersi là sotto. Di correre giù dalle scale, sì. Senta, mi dice qualcosa, questa struttura in vetro, c'era almeno nelle foto prima della... Ma è rivolta a valle questa struttura. Per sì, cui una specie, slavina... diciamo, di piramide di vetro che copriva, cosa c'era dentro la struttura? No, questa struttura è praticamente il primo livello inferiore con questa vetrata che dà all'esterno, nella mezza piscina esterna. Quindi copre la piscina? No, è una vetrata proprio. Ovviamente è tagliata a pelo d'acqua. Che mi pare che non ci sia più la vetrata, stanno le prime cose. Stiamo cercando una foto recente di quello che. Intanto sentiamo, resti in linea Domenico che ci può dare qualche altro elemento. Eccola Carlo. Qua, questa è la vetrata di cui ci parlava probabilmente l'ascoltatore, sopra quella specie di cupola, modello Louvre, diciamo. Sì, una cosa del genere. Piccolo. Che probabilmente dà luce a quello che c'è sotto. Ora sto cercando una fotografia che sia stata scattata dai soccorritori, perché queste sono tutte comunque, quelle stiamo vedendo precedenti. L'interno delle stanze, un bellissimo albergo, molto lussuoso, molto curato, era un posto fantastico, sala biliardo, stiamo vedendo questa, c'è addirittura una pianta. Abbiamo la pianta vista dall'alto, è una bellissima struttura, diciamo, intorno a quel casale si era lavorato parecchio, ma ha lavorato per il benessere dei clienti. Abbiamo Carlo, provincia di Modena, ex vigile del fuoco. Carlo. Pronto, buongiorno. Sì, l'ascolto. Allora, io ho ascoltato, sono in viaggio, ho ascoltato la cosa di quella turbina che è rimasta senza gasolio. Sì, preoccupava allora, molto l'ascoltatore. Ecco, io ho sempre fatto servizio in un distaccamento di alta montagna, è una cosa normale ogni inverno queste grosse nevicate. Queste innanzitutto turbine sono macchine operatrici, non sono macchine da velocità, da strada o meno. E poi eventualmente quando vengono scaricate sul posto, perché vengono scaricate da dei carrelloni, logicamente quando si trovano a operare hanno un consumo esagerato di niente. Invece di fare 100 come un autocarro normale, 190-100 all'ora, fanno in due ore fanno 2 chilometri. Questo e hanno un consumo questi motori quando sono operative, che devono anche, diciamo, rimuovere la neve, consumano molto di più, questo è logico, chiaro. Quindi insomma il consumo secondo lei è dovuto al fatto che aveva lavorato, molto. Oppure io questo non voglio difendere l'autista, perché strano che l'autista, perché ogni automezzo dei vigili del fuoco che rientra da un intervento, il primo lavoro che viene fatto il rifornimento, segnato i chilometri che ha fatto, gli uomini e i materiali che sono magari che mancano perché sono stati usati. Questo può essere anche un errore, questo è certo. Però scusi, Carlo, faccio una domanda. Può essere che la mole di impegno di queste macchine era superiore ad ogni previsione, che magari potevano essere utili per togliere la neve da una strada percorribile dai turisti, ma non certo, per rimuovere un albergo? È proprio questo, perché queste turbine hanno un motore di trazione come un autocarro, una spazzatrice, non sono autocarri, sono macchine operatrici. E nel cassone contengono un motore da 400 cavalli per fare funzionare questa turbina, perché è uno sforzo impressionante fare girare questi due ventoloni, no? E a un certo momento c'ha due motori che aspirano carburante, e può essere anche stato, e ha fatto solamente, non so, 5-8 chilometri. Fermo un attimo, abbiamo Pietro da Roma, sta aspettando delle informazioni per una persona che sa che è in questo albergo? No, buongiorno, chiamo da Pescara. No, sì. In pratica ho appena sentito una nostra amica di famiglia molto, molto stretta, che mi raccontava che la sorella, il marito della sorella e due nipoti sono sotto, quindi aspetta dalla protezione civile delle informazioni, e lei tra l'altro ha con lei le due altre figlie di questa sorella, quindi le sue nipoti. Quindi già una famiglia di cui una parte sta con questa sua conoscente. Esatto, due figlie con la mia conoscente e il resto della famiglia, quindi genitori, due figlie sotto. Sa sotto quando ha avuto l'ultimo segnale, diciamo, da queste persone? Niente, lei ovviamente sapeva della vacanza, insomma, del relax della sorella, e si sono sentite ieri, dopodiché più niente. Poi questa notte è stata contattata da amici che hanno sentito quello che era successo ieri sera, insomma. E non ha avuto contatti, ha avuto contatti questa mattina, mi raccontava con la protezione civile, e gli hanno detto che di lasciare il telefono sempre libero, che l'avrebbero richiamata. Quindi diciamo che la protezione civile ha un contatto diretto con i familiari delle persone che si pensa che alloggiassero in questo albergo, e le informa puntualmente di quello che è lo stato dell'opera. Ci fermiamo un istante per la viabilità, tra poco. Melog, cronache meridiane. .800240024, grazie comunque al contributo del nostro ascoltatore, abbiamo capito qualcosa di più assieme a Laura Bettin. Il problema della turbina rimasta senza gasolio ci ha spiegato Carlo, che è ancora in linea, un vigile del fuoco, ci spiega, sono mezzi, sì, usati per dei soccorsi la neve, ma non è detto che possano essere stressati come probabilmente è stata stressata questa turbina. Questa cosa, una cosa è rimuovere detriti e neve che sommergono un hotel spostato di vari metri, una cosa è pulire una strada. Cerchiamo qualche informazione di più sull'hotel, sul hotel Rigopiano, perché questo è fondamentale per capire quali potrebbero essere state delle aree di possibile rifugio delle persone che erano ospiti dell'hotel. Domenico, provincia di Teramo. Sì, volevo aggiungere che faccio fatica a immaginare il punto da dove è arrivata la slavina sul resort, perché non è mai accaduto che lì ci fosse una slavina. Tra le altre cose, non è che abbia sta gran pendenza quel costone che porta, poi c'è lungo la strada, perché passa lungo la strada di collegamento al resort. Però c'è stato un terremoto e non è che cadono così. Esatto. E l'hotel, dalle foto che vedo, l'hotel sta proprio sotto la montagna comunque. È sotto la montagna. Sì, però c'è anche vegetazione poi a monte la vegetazione del purtroppo la vediamo dentro la valanga stessa, però se l'è portata via. Esatto, ma la valanga è partita in alto, ma parecchio in alto. Beh, per aver abbattuto tutta la vegetazione che c'è. Parecchio. Ma è la tempesta perfetta. Non... Sì, peggio sì, di sì. Così comunque non poteva andare. Insomma, noi siamo abituati nella zona, tutti gli anni fanno metri di neve. Non è che siamo proprio indifesi verso la neve. Certo. E poi comunque questo fenomeno della mancanza di elettricità non si verificava da tantissimi anni, da quando hanno sostituito praticamente i tralicci di legno con quelli di ferro, con i tralicci di ferro, e non è più accaduto di rimanere 2-3 giorni senza elettricità. Non mi spiego come mai nel terzo millennio insomma si resti ancora senza di questo avremo le risposte diciamo in tempi più lunghi, però ripeto, senza assolvere nessuno, senza fare processi a priori, non avendo gli elementi a disposizione, considerate che c'è stato un terremoto, delle scosse forti, la montagna si è mossa, è caduta non soltanto neve, detriti di roccia e neve fanno una massa importante, da qua viene la singolarità. Anche i problemi alla rete elettrica, una cosa è la neve che viene prevista, viene benedetta, come ho detto, in Abruzzo quando nevica sono tutti contenti perché vivono nel turismo legato alle attività sportive e sciistiche, ma neve più terremoto, più una zona già massacrata da un terremoto precedente, con probabilmente degli interventi non tempestivi per ripristinare le comunicazioni, è una miscela esplosiva. Laura. Ma io continuavo a indagare sull'hotel perché ci siamo ovviamente incuriositi, no Gianluca? Vedo su Booking a partire da 140 euro, era un hotel incastonato, viene descritto tra le montagne della catena del Gran Sasso, circondato da pendii boscosi, resort di lusso, 8 km dal monte Carnicia si dice, 26 dal monastero cistercense di Santa Maria Casanova, insomma wifi, tv schermo piatto, insomma è quello che ci siamo detti fino adesso, era un bel posto sicuramente. Vedo che ospitava convention, c'erano delle sale riunioni, quindi diciamo, campi da tennis, la spa con la sauna, la mamma, dicevamo prima, la piscina, no? Mezza al coperto, mezza all'esterno, insomma sicuramente era un bel posto. Domenico, avevamo già sentito prima, provincia da Teramo, altri elementi da aggiungere, quelli che sì, stiamo cercando di mettere assieme? Giornalisticamente si racconta una verità tutta bella, mentre invece mandare avanti una struttura del genere in quel luogo ha avuto parecchie difficoltà. Mi spieghi, anche perché diciamo è un investimento ardito rispetto alla media ricettività del posto. Assolutamente sì, assolutamente sì. E ha avuto parecchie difficoltà pubblicitarie, di viabilità per essere raggiunto da Roma, dai romani, per essere raggiunto dall'aeroporto di Pescara, cioè ha avuto parecchie difficoltà quella struttura. Ma c'è una tipologia di ospite di questo albergo, dalle sue informazioni ma naturalmente? No, la tipologia varia perché ci sono dei pacchetti di fine settimana con un costo appunto di 140 euro. Alla portata diciamo di un pubblico molto ampio. Sì, sì, un pubblico molto ampio. E poi comunque ci sono persone di elevato ceto che lo frequentano, ma nulla toglie anche all'impiegato o all'operaio di frequentarlo per un fine settimana. Quindi lei fra le righe mi dice che c'era una lungimiranza imprenditoriale che non è proprio tipica della ricettività media abruzzese. Io ho casa in Abruzzo, conosco gli abruzzesi con le mie tasche. Diciamo era considerata una struttura di classe superiore rispetto alla media di quello che c'era intorno a lei. Sì, usufruibile anche per i ceti, come dire, più bassi. Riccardo da Brescia. Riccardo, sì, Riccardo, anche lei ci aveva chiamato prima, che conosceva quell'albergo lì, ha qualcosa da aggiungere? Sì, buongiorno, io conosco il contesto perché ho origini abruzzesi, ora vivo a nord. Intanto volevo dire che io sono stato in quel posto, in quelle zone, almeno 35 anni fa, per un ultimo dell'anno, ed eravamo rimasti intrappolati proprio a causa della neve e ci siamo rivolti all'albergo che aveva un'organizzazione, non era di questo tipo, non era allora un ancora resto. Era un caso, è il casolare dei nonni del proprietario, come ci ha descritto prima, diciamo. Ma già da allora c'hanno problemi. È per quello che chiamo, perché io ricordo di aver fatto l'ultimo dell'anno in un rifugio lì vicino, dopodiché ci siamo spostati un centinaio di metri più in basso e c'era questo albergo che secondo me era, aveva la struttura originaria, ma non era... Vabbè, 35 anni fa, il tempo è passato, l'albergo è cresciuto e continueremo ad andare avanti con le trasmissioni successive. Passo la linea appunto al collega Spezzi a raccontarvi quello che sta accadendo in Abruzzo. Grazie.